Sassoni, cioè avevo raschietto, quello che usano i muratori per raschiare i muri, capite? Ce l'è presente? Penso di sì. Col manico allungabile raschiavo le cose dal muro, li mettevo il coppo sotto e cadevano nel coppo. Me ne facevo un po' e poi incominciavo a pescare, perché una volta me ne ho fatto due belle grosse, le ho messe nella canna, le ho lanciate e poi sono andato a fare le altre. Come mi sono spostato, è partita la canna e meno male non ci è finita in mare, e ha fatto la parrucca, come girava in fretta la frizione, mi ha fatto la parrucca e punta, mi ha spaccato la leccia, chissà che ha pesciuito. Sì, molti invece alla spiaggia fanno così per pigliare i granchietti e poi per le razze fanno pazzi fatti per i granchi. Già lo so, l'ho fatto anch'io, un bel di volte. Io chiedi a Mario Masser, ne abbiamo fatto 20 in poco tempo con la cosa. E lui ha pescato abbastanza, e lui è cannoso, ha pescato abbastanza, non pesci grossi, però li ha preso. Mi faccio dice i dosti, dai, che ne una gara, Cosa ti fai? Il tossolo. Ma aspetta, gabarito. Ah, non vede l'ora, no. Adesso si rimane a tutto rubacco. No, io capita che non è rubacco, no. No, ma se aspetta ancora bisogna mangiare un altro gelato, gà. Boh, cazzo, no. Io a te non ti comprendo. Io la verità mi sono raschiato il formaggio, quello piccante, da una crosta, perché l'hanno tagliato male, dopo che ho scavato, alla fine l'ho dovuto scavare anche io e mi sono pulito tutta la crosta e mi sono mangiato quello. Capito? Aspetta un attimo. Data lì, e oggi ora ti tocca la fai lì. Ho il risotto da mezzogiorno e mangiamo quello, ma ci faccio una passata di gambaroni. E a me mi vede la canna e fai, non so cosa sia, prendiamo una mezza taglietta. E d'accordo, io me l'ho fatta portare qui ed è buona, quella di Pira, di Carlo Pira, in via Nulla, me l'hanno portata qui ed è buona. Ah, te la porta anche a domicilio? Sì signore. E mamma non so se me la porta, adesso sono fuori. No, so quello. Anche io vengo un bel dietro, non ci sono andato in via Nulla, che saliti in vecchio. Già lo so. Io ho telefonato da qui e mi danno arrivata ai nomi, allora mi dico, tranquillo. Allo. A me mi pare me la posso in casa io, domani mi devo a fare gli esercizi. Ho tutto quanto lungoso come si è fatto tanto. Me pare per la bozza, una volta me l'ho già fatta questa poi ci dà buona. E io pure una volta l'ho fatta in laboratorio e ci dà buona prima. E c'ho la taglietta proprio. Sì, e me è proprio avanzata, e dopo me l'ho già pure mangiata. E è troppo buona, quando ti la fai tu, ma quello sai che velluto d'arriva e tutto. E è troppo buona quando è fatta così. E io. Gianni, cosa ci fai? Nulla, non sto facendo nulla, non sto bene, boh. Oggi sono proprio qua. Sono anche a capogiro, non capisco cosa sia, se è debolezza o che cos'è. Forse sarà che vai fammi. No, non penso sia quello. Ho mangiato a pranzo, ho giocato una maniera di gara soffugata. Glicemia misurata direi. Sì, la glicemia a posto. E allora, boh. O forse sei troppo sdraiato, come dire mesi per poi capogiro. Ma che se mi ha 136. Già è buona. E per un diabetico sì. Vabbè. Adesso vabbè, mi dopo proprio. Che ore sono? No, è presto ancora. Pensavo fosse più tardi. Adesso mi devo preparare per accompagnare, invece è presto ancora. 2:07. E io via. Uno radio casino est. Speriamo che mi passino questi due, se no mi stanno assillando. Mi stanno già assillando. E tutto lì, vabbè. Fatta la pop online. Tu menti? No, a caso stavo lì. Ah. Stamattina lo sto portando io, Mittoni. Mio figlio si alza sempre tardi, cavolo. Ogni volta viene alle 11, un po' fa che si allonga in chilo. Invece bello, ma lo sta studiando? Cosa? Lo sta studiando il tuo figlio? Mio figlio è all'università. Lo sta studiando. Orientato dopo la mia famiglia anche lui. All'università non tutti i corsi si frequentano. Si preparano gli esami e poi si danno gli esami. A volte fanno le lezioni, quando sono le lezioni va, non è che vai tutti i giorni, anni di riposare, perché studia, si stanca mentalmente, e allora quindi ciccia, sai già poverino. E a Marco gli manca poco mia laurea, aspetta che c'ha due esami che deve dare. E che cosa stai laureando? Tecnico biologo. Che è? Non ha giù preso. Tecnico biologo. Ah, tecnico biologo. Andame. Ui, ui, ui. Io niente, stavo studiando quando ero più giovane, poi ho mollato tutto, poi ho detto, ormai sono già bravo. La tautologia. Vabbè. Comunque avevo ragione io per quella storia lì, l'ho fatto vedere a una persona che se ne intende, mi ha detto che ho ragione io. E cioè? Cioè, la tribù Surinoghi, cerca di capirmi, che la data era quella là, la prima che dovevano dare. Non ho capito. Io via. E vabbè, ma tu non me lo dici. E io. E vabbè, comunque. Tutto bene, ciò che finisce bene. Adesso il 9 vado, e chiedo. Natalino, Natalino, sta pensando pizza, Fofeni. Natalino non li vraggia, mi dice. Ecco una cosa che due in basso, Raffaele. C'è che altri occhi, io mi dire chi vive, una di me la mangiamo. Ma, aspetta, aspetta. Oi, Zanca, a me mi piacerebbe andare a mangiare quella di Antonio, purtroppo tu due noi negri in chivi, non andi a pigliarla in chivi. Vabbè, mica la fanno i nigri, la Tari. La fa Antonio che la fa Simona. C'è più lui, la sorella c'è. Boh, è capetti passati in chivi. Io no, con la scusa che non posso camminare, mia moglie c'ha paura e non ci va. E l'ho presa rapida ieri a Bonalvatese. Basta passare, prenotarla. Boh, allora che vai, la retire in atti. Boh. Sì, già lo so, a meno che non vado in macchina. Capito. Sofia. Cazzo, due massi è natalissima. A me si capisce già che non c'è il numero di telefono. Telefono né Antonio. C'ho anche il numero del cellulare suo. Non l'ho pigliato sempre io. Telefonavo quando mi diceva è pronta a talora. A talora andavo e me la ritiravo. Ma... Quindi ce l'hai il numero di telefono di Antonio tu allora? Sì, ce l'abbiamo il numero di Antonio. No, non mandamelo su WhatsApp, la tariffa. Così almeno, cazzo, me la prenoteggio, cazzo. Io domani voglio fare una giuragana, cazzo. Gianni, che fine hai fatto? Io qua sono. E beh, quando te la mangiamo ci la fai niente. Quando te la mangiamo? Tu di Natalino, ma tu come ti radio, non sei uscito? Sì, ma io perché non premo bene? Perché il mio e l'altro c'ha il pulsante sopra, invece questo qui ce l'ha sotto. Quindi sbaglio molte volte, capito? Secondo la radio che prendo, sbaglio. Cosa dici? Oggi è andato a vagliare, Elena, sì? Oggi sì, domani no. Ecco, oggi me la compagna a travagliare, allora ci vediamo e travagliamo. Domani travagliamo? No, oggi travagliamo. No, oggi no, oggi non fa. Perché? Perché devo fare altre cose, ti spiegherò. Ah, va bene. Adesso Catalina come manda il numero e manda l'Antonio al prenoteggio, così passo in macchina a Temino, mi fermo lo corso, ti tiro la fai lì e poi ce la mangiamo. Ma non è buona perché quella dove l'ho presa io. Ma quella di Antonio è più buona, dai. Quella di? Antonio. E non sa la fai nero, ma a te. Mi è stato nato. Bravo c'è Bizzino, Era con la giurita. E in gamba la giurita buro, vede Bizzina. Oh. Ah, tu quindi la vada che la Bizzina, perché la giurita la vede a Bizzina, così. Bizzina, ma dai, ha avuto pure un figliolo in mare. Ed è buona buro. È sempre buona, vero la Tarì? Te credo. Cosa c'ha di speciale questa Fainì? Lui se non va derato lavora da tizio, così è la Tarì. No, c'ha di speciale che sei sicuro che ci mette l'olio d'oliva. E c'ha un altro sapore. Poi è col forno a legna e tutta un'altra minestra di mussi. Io andavo sempre in cima a pigliarla. Quei tre via nurre invece verrà elettrico, Gianni. Non ce l'hai vista a legna. Io la giù c'era elettrico poi. E allora l'ha cambiato il forse. Gianni, guarda come sta. E me la tali il suo numero, me lo mandi? Aspetta che me lo dati le moglieri e te lo mando. Eia. Oppure tempo fa, non so se lo fa ancora, a Romonte, Massino, la drippa, la pavada. Quando viene Massino sì. chi su già laggiù mangiato un bel di volte in chi vi la roba in chi vi la con aprile aspetta un attimo che ando su vuoi già e te lo mando eia anche perché mangiamo di volte ma ero ancora piccino io ancora giovane che non la fate di più una tale in chi vi no da mattino no lo so la verità ce l'ho figuro penso all'interno si entrava la mancata via magna favada trippa siamo che era buona favada che ha di preso cibo in alto buona la pazia che la trippa è tutto ah sì però adesso io non so come cercarti qua ma mi hai memorizzato almeno nel telefono sì. Ma c'è chi su WhatsApp, nome mio, cosa hai registrato, e macciappi. Aspetta un attimo che vado col telefono, là, col computer non fa adesso. Noi l'altra lì la prendevamo la Croce Blu, anche le fave con il lardo e coso. Andavamo con la pentola grande, ce la riempiva e ce la portavamo giù a mangiare. Sì, già lo so. A me piace Grumbane però. Quindi Gianni cosa dici domani? Gianni c'è pezzo. Se vuoi Natale ti mando un ciao su WhatsApp e poi scrivi sul mio e tu il numero di telefono di Antonio. Ah, basta che vale il tuo numero di telefono. C'è scritto WhatsApp, clicca lì, capretto. Io faccio così, fallo sul numero di telefono, sotto ci sono WhatsApp, eccetera, eccetera, tu clicchi su WhatsApp e poi mandi il messaggio. Natale, ti ho mandato. Manda il numero. Già mi ha trovato perché sono uscite le due lineette azzurre, quindi sta scrivendo. Ok. Adesso si chiama Antonio Edo, giusto? Eia, speriamo che ci sia ancora, che boh, io non lo so se è aperto quello lì. Comunque il numero è quello. Ok, grazie. Adesso me lo registro così domani provo a chiamarlo. Se no, pronta la va, finisce le 9 e taccio qua, poi no, meglio domani dai. Lo chiamo appresso quando lui sta facendo l'impasto, praticamente. Così sono come dei primi. Io l'ho registrato Antonio Faini. E anche mia moglie ce l'aveva registrato così. Comunque Antonio non ha WhatsApp, Cosa Antonio? Che Antonio WhatsApp non ha. Ah, non ha WhatsApp. Anche ho provato a cercare su WhatsApp, non ce l'ha Antonio, la famiglia. No, devi telefonare. Sì, lo so. Io. Gianni, chi tu si putta sempre qua? Gianni? No, stavo facendo uno scherzo a mio figlio. Ero che non è casa tua? No, sei andato, è casa della mamma. Ti dormendi, Cos'hai già? Lo apre domani? Oh già. Lo dico a Elena, dai, sei d'accordo. Ehi, diglielo adesso, tanto c'è ancora lì. Me l'ha detto che già va bene, eh? Ok. Cosa piglio, la metà o quella, cioè la media o la grande? Per tre persone, dici. Con cipolle? Cappa. Va bene. Vengo anch'io a mangiare la pizza. Vengo anch'io il nottuno, vengo anch'io il nottuno, vengo anch'io il nottuno, ma perché no, perché no? Se mi non la fate te, mi ha parli so pure io, che se sono entrato, non fa vedere più nessuno, io tu, in gamba, gli senti, oi oi oi oi, Gianni, Donino, Natalino, oi oi, in gamba, gli senti. In gamba sei tu, Ruggerio il genio! Io già lo so che sei in gamba. Lo vedi tutti perché sono una persona doc. Che cazzo, ma perché non ti hanno chiamato Modestino? Perché non mi hanno chiamato? Modestino! Visto che te la tiri! Io non mi tiro niente. La tua semplice vita. Sono in gamba, tutti lo dicono, lo so. Di esserlo non è neanche modestia la vita che è serioso che si oggi stasera mamma mia io voglio abbuffonare e tu non vuoi abbuffonare ciao genio buonasera tu fa pizzo invece di scendi buonasera tu da pizzo sei al suo cotriore no che per un gioco vi stavo seguendo infatti ho detto che vengo anch'io domani sera in te tutti muti stavo scherzando sto lavorando non ti sto vendo sto lavorando non ti preoccupate Tallino, che fine ha fatto? Cos'è già? Ho detto, la Tallino l'acqua, che fine ha fatto? Nulla so. Quando vuoi voi? Se adesso non sta parlando, non chiamate, non parla. Avanti, fatti te questi toast, Tony. Cosa tutto già comparato, proprio tiro, di tutto già comparato, Tony, oggi. E poi dice che fate dieta, capito? Dice che se ne mangiano gli altri, le paste, e tu a casa si fa la provvista, cazzo. Il suo coso è cupiendi, che pozzetto che c'ha, è cupiendi. Lui mangia gelati, lui mangia profiterol, e toste, chiscia, chidasso, cazzo. Non la fa, poi, Antonino, entra in provocazione. Antonino, quando sono a casa tua a mangiare. Oh yeah. Porca miseria. Non ti sporta la gamba se ti fa male. Inclai. In gamba, mi si. Ciao l'amico mio di Porto Torres. L'amico mio di Sassari, ciao Lucchino. Oggi buonasera, buon anno, Se non ci siamo fatti gli auguri. Oggi così, colpo d'aria io ho preso, a far Napoli, va. Sta buttando, dormito. Un po' male la gola adesso. Ciao Luca, anche a te, ti ricoprire, buon anno anche a te, Mi auguro a tutti quanti, quelli che sono ascolto, a tutti quelli che ci sto parlando, tutte cose a seguito. Avete passato bene l'anno? Sì? E tante cose calde a tutti. Tante cose calde a tutti. Come l'avete passato il 31 notte? Ciao Eugì, Sì, a 8:30, la rinnovo che ho già dormito. Ciao Giulio. Ciao Luca. Salutoni. Ciao Gianni. Tutto bene? Buonasera Giulio. Bene, diciamo che la gamba un po' mi fa male, dico la verità, non posso dire il contrario. Ma già stai facendo da bravo, sì. Non è che la stai strapazzando questa gamba, no, prima del tempo. Diciamo che ho fatto da bravo, sto facendo fisioterapia e dopo che faccio la fisioterapia mi fa sempre male. Probabilmente sto facendo troppi esercizi. Adesso invece che 30 ne faccio 20 di ognuno e via. Proviamo così. Ho capito. Vabbè, lo so, ci vuole tempo, anche mio fratello non è che ci ha impiegato poco, proprio prima di eliminare definitivamente il dolore. Però purtroppo sono cose che purtroppo tu ci devi andare piano, comunque non forzare troppo. Lui addirittura andava dal fisioterapista, pagava 25 euro a seduta e dice quando uscivo mi stavo male, mi faceva, ho deciso non ci vado più e se la faceva da solo, piano piano, e dice in poco tempo è stato bene. Allora Giulio, su internet, anche per chi non l'ha fatto, vabbè io avevo già le basi perché sai com'è, ho fatto l'altra, quindi, ma su internet ci sono i fisioterapisti che ti dicono gli esercizi che devi fare la prima settimana, la seconda settimana, la terza settimana e la quarta settimana. Se tu segui la lettera, quello che dicono, va benissimo, capito? Io ho seguito la lettera, io non sono manco un mese mi ho operato, mi hanno operato il 6, sto già camminando senza San Pedro. Caspita, allora stai andando bene già, caspita, però non esagerare, non è abusare, vi sei considerato che hai messo da parte la stampella, no, io la userei ancora, anche per proteggerti, anche se non ti serve, però per proteggerti già, se tu devi avere un po' più di pazienza prima di abbandonare il bastone, così diciamo, dai, scusa Eugì. Dopo 4 settimane le stampelle si lasciano andare. Scritto sul foglio, io ho fatto la lettera a ciò che mi hanno detto. Ma a volte sai com'è. Vabbè, comunque, sicuramente tu sai come comportarti, non ci saranno problemi, senza dubbio. Però è solo una questione di tempo già, no, non è quello il discorso. Avanti, Eugì. Ma l'avete sentito quella tragedia che è successa sulla Budibuti? Un ragazzo travolto, stava lavorando questo ragazzo, sulla Budibuti è stato travolto da una macchina. Poverino è morto, 22 anni. E quando oggi? A Solina. Stasera. Non sapevo niente. Ma nemmeno io ho saputo niente. Purtroppo tutti i giorni ce ne sono di queste cose. Chi era l'altro amico? Luca. E buonasera a Carlo da Questa che riprende. Ciao Carlo! Ponte Nuovo per me, direzione Alghero. Carlo, andate a imbarcarti. Allora, ciao Giulio, ciao Eugenio se mi sente, ma non lo so. Magari più in là mi sentirà. Ciao Carlo, buonasera, ti ascolto. Adesso sono vicino dove abita Luca, scendendo verso via Sorso, via Marghinotti, quella l'incrocio là. Scappa, vabbè, ti spacco lo smite, ciao Carlo. Ciao Luca, ciao Giulio, poi non so se c'è ancora Natalino. Natalino è scomparso, boh, non so che fine ha fatto, c'è Tonino sicuramente. Tonino, buonasera, Tonino, ci sei ancora? Tonino, c'è sì. Non lo so, c'era sino a poco fa. Natalino lo stesso, non l'ho sentito, non lo so. Vabbè, dai, saranno in stand-by magari in questo momento, se erano qua in frequenza, confermi? Sì, erano tutti in frequenza. O sono al telefono magari, non lo so, non so cosa dirti. Ma Eugenio, non riprenditela. Io sono qua. Ciao Carlo, se mi ascolti. Buonasera, mi hai sentito? Una rotonda sul mare, la Tirrenia che attracca. Vedo la gente sul ponte, ma non si butta mai nessuno. Allegro, gente che canta vuol dire gente allegra, e va bene così, molto bene. Non mi vorrei dire che devi andare a lavorare anche stanotte, no? Oggi. Se te lo dico, intanto non ci credi. E te lo dico, te lo dico. Già ci credo, già lo so che non sei bugiardo in tal caso, per cui già ci crederei, perché no? Perché non ci devo credere? Se me lo dici, già ci credo. No, proprio stanotte no. Sono un attimo presto alle 4. Meno male che non è stanotte, domattina presto alle 4. Boh, boh. Gianni, dimmi tu se c'è molta differenza. Io già ne ho abituato oramai, ci ha fatto il calo, tanti anni che lo fa, quindi lo so che è un lavoro un po' così, ma ti lascia anche un po' di libertà, capito? Perché tra un arrivo e l'altro c'hai lo spazio, non è che è un lavoro continuo. Sì, quello sì, abbiamo un sacco di tempo libero, però sai quanto è brutto fare il cenone del Capodanno con gli amici, eh? Si fanno le 2, si fanno le 3. Beh, signori, ci vediamo, che io non avevo. Lo so, se tu pensi che io il Capodanno l'ho passato da solo, ti dai almeno i ricordi amici, tu ero da solo perché Elena lavorava e quindi non ho fatto niente. Vabbè, tu sei lì a casa, tranquillo, ma ti hai fatto, ti hai guardato il concerto, insomma, però non è bello lo stesso comunque. Ho avuto una figata, mi sono rifatto il giorno dopo, abbiamo fatto karaoke a casa, c'avevo amici, c'avevo tutti i parenti eccetera, però diciamo tra il giorno di 31 e l'1 ero solo, perché vabbè, mi ho guardato il concerto alla televisione, a me non mi è pesato sinceramente, mi ho guardato il concerto rilassato, sdraiato sulla poltrona. E niente, mi sono guardato il concerto, abbiamo mangiato una fetta di panettone e via, manco spumante aperto, ho mangiato una fetta di panettone e poi mi sono andato a letto, dopo mezzanotte me ne sono andato a letto. Ehi, però stavo separando in due, chi è che stava parlando sotto Gianni? Non lo so se stavo parlando io, forse, boh, non lo so, o sicuramente ero io forse che stavo rispondendo appunto a Gianni. Vai Giulio, dai, che non ho sentito nulla, fai di nuovo l'intervento. No, stavo dicendo che non c'è poi tanta differenza tra la notte e le 4 del mattino, sempre di notte si parla il servizio che deve fare Eugenio. Io alle 4 di mattina andavo a pescare, immaginati tu, una volta mi sono trovato i carabinieri appresso, mi hanno perseguitato sino al Molo Asi. E allora si poteva entrare in Boloasi, hanno puntato quel faro che c'hanno sopra, scendono dalla macchina, documenti, questo, quell'altro, e che fa, ma noi a lei la conosciamo, io lavoro al Tourism Market, le ho detto, non me lo poteva dire prima lei perché prima mi ha fermato, gli ho detto, dice ecco perché poi, vedevo che era un viso conosciuto, non capivo se era una persona conosciuta per altre cose, capito? Insomma ti stavano scambiando, dai, e vabbè dai, comunque può succedere, dai, dal resto le persone alle volte si rassomigliano e poi trarre in inganno altre persone che vedono, che guardano. Va bene, dai. Vediamo se entra Tonino. Tonino. Tonino, batti un colpo se ci sei. No, evidentemente è impegnato. Carlo, mi senti sempre con 2 watt? Sì che ti sento. Adesso sono davanti all'incrocio dove c'è, come si chiama, il vialetto. Ah beh, allora sei a un tiro di schioppo da me, per cui mi senti per quello. Magari quando vai più avanti con soli 2 watt non è che posso avere più di tanto, pretendere più di tanto. Va bene, dai, avanti Eugì. Poi a Carlo, capito bene, sei al vialetto? Sì, esatto, Eugenio, già ti sento un po' basso perché diciamo con questa antenna non ho molte prestazioni, però se ti arrivo lì a Porto Torres vuol dire che già sta pompando l'apparecchietto. Sì, sì, basso, ma ti ascolto, dai, sta andando bene. Ehi, adesso sto passando davanti a Conforama. Ci riesco ad arrivare a Santiago 4-5? Guarda, qua mi stai arrivando fondo scala, Giulio. Io stamattina ho messo l'antenna sulla macchina, non c'era nessuno. E io ho acceso per vedere se c'era qualcuno e invece non c'era nessuno. E allora ho fatto una chiamata ma non ha risposto nessuno, allora ho chiuso. Intanto, stavo dicendo, oggi tu a me come mi senti di segnale, visto che sono con solo i 2 watt? Tu Carlo mi senti a fondo scala, per forza, siamo vicini. Avanti Eugì. Allora giù. Tu quando portate in fissa sei a 5, poi fai sali a 6. Comunque quel ragazzo morto dentro il ferro vecchio, un camion l'ha schiacciato. Stava nel camion del rimorchio. Era ancora vivo, stavo cercando di rianimarlo, ma poi è deceduto l'animazione, perché ha 23 anni. Poverino, sfortunato, porca miseria, non ci voleva, sotto le feste, proprio, è una tristezza. Poi sto notando che ultimamente sta volendo gente giovane, si trova il giornale, gente giovane, così all'improvviso. Ma io dico sempre questo, la vita si la deve, uno se la deve godere e boh. Poi ci sono quelli che magari ce la fanno, come si dice, fanno la vita complicata, a rompere le balle, qua e là, la fanno già la vita in sé, sappiamo com'è, no? In più la fai di merda, ancora peggio. Bene, va bene, là. La gente ormai con la testa non c'è, ormai c'è le... ci sono quelli che vogliono sempre bisticciare e fare, tanto prima o poi anche a loro sotterra, no? Vabbè, purtroppo è così, bisogna accettare anche queste cose brutte, la vita ne riserva proprio diverse. Vediamo se è rientrato, chi è che doveva rientrare? Tonino! Ma adesso mi sei arrivato a fondo scala qua, ti puoi immaginare, meglio di così. Giulio idem, anche tu ti sento forte e chiaro, capito? Radio Super 5. Un attimo di cuorissimo. Ok, beh certo, siamo vicini, per cui è chiaro che la potenza non c'è bisogno di niente, va benissimo così, anche con pochi milliwatt mi sentiresti ugualmente forte, visto e considerato che siamo praticamente nella stessa zona. Riprendi Gianni. Gianni si è allontanato un attimo. Avanti Eugì. Stavo leggendo di questo ragazzo, poverino. No, non so queste cose. Mi rattristo veramente. 22 anni, non si può morire 22 anni. Luca, lo conoscevi? È di Sassari. No, negativo, è troppo giovane. No, niente. Troppo un casino. Sicurezza poca sicurezza. E come si chiama questo giovane? Eugenio, che state leggendo il giornale? Come si chiama questo giovane? No, non c'è scritto il nome. Davide da Costa, mi sa, o da Costa. Non lo so, da Costa. Così ha detto. Davide da Costa? Sì. Deve essere questo qua. Ok, purtroppo sono cose che succedono tutti i santissimi giorni. Vabbè, ci vuole prudenza, ci vuole. E soprattutto fortuna nella vita. Cosa ci vuoi fare? Vabbè, dai, signori belli, io vi lascio, dai. Io me ne vado a cenare. Per cui vi saluto tutti, vi ringrazio intanto tutti quanti per questo. Alle prossime. Ciao Gianni, ciao Carlo, Luca, Eugenio e quanti ce ne fossero in ascolto. Salutoni a tutti, ascolto il finalino e dopodiché chiudo. Vai Carlo. Ciao Giulio, buona serata, buona carica, ce la risentiamo, grazie dei tuoi interventi. Vai Luca. Sì, dai, ciao Giulio, salutoni, buona carica a tutti, alle prossime, avanti Eugenio. Ciao zio Giulio, ti fidimmi, ciao a tutti di nuovo, buonanotte e buona cena, che bello, quando la farete là. Ciao. Eugenio, mi senti ancora? Certo che ti sento basso, ma ti sento sempre. Dove sei arrivato? Ho passato il bivio di questi bancari, adesso sono su quel ponte Rio Manno, capito? Sulla quattro corsie, perciò andando al Cairo. Ah, ok. No, ma già ti ascolto, ti leggo fuori alla grande. Qua questo passaggio che hai fatto mi è arrivato in fondo scala. Radio ottima. Tu a me mi ascolti bene, sì. Eia, radio Super 5, in questa zona ti sento molto meglio. Perché magari in linea d'aria siamo vicini, capito? C'è la camionale, siamo vicini. Sono contento perché prima non arrivavo a Porto Torres. Ho fatto qualcosina adesso e pare che stia andando meglio. Brecco, buonasera. Avanti Brecco. Ciao Carlo, buonasera. Buonasera Gavino. Positivo, buonasera Gavino. Sì. Dove ti trovi Carlo? Sono sulla quattro corsie, sto andando a lavorare. Sono al primo bivio del lago di Barat, prima del rettilineo che ti porta al rifornitore, qua sulla quattro corsie direzione Alghero. Positivo, qua sì, segnale 7, radio comprensibile, radio 4, segnale 7. Perché in macchina avevo tolto tutto perché dovevo sistemare un po' la macchina, era tutta sporca, quindi l'ho portata al lavaggista. Poi dovevo ripiazzare la radio e tutto quanto e non avevo tempo. Questi giorni avevo un po' di ferie, mi sono messo l'impegno, ho fatto l'impianto di nuovo fisso, diciamo così, andando al lavoro qualche volta, quando piacere si possono fare. Adesso sono proprio davanti al rifornitore. Positivo, ti copio perfettamente. Ciao Eugenio. Ciao Antonio. No, ciao Gabri. Buonasera. Buonasera a te. Prendi Carlo. Ciao Gavino. Oh, ciao Luca, buonasera. Vediamo un po' se mi ascolta Carlo, mi ascolti Carlo. Ascolta, ecco cosa vuol dire Luca, qua stai buttando giù la radio, ti sento molto forte di radio, super 5, segnale fondo scala. Io sento un bel basso, c'è un po' di QRM, cosa ha detto? Che ti sento forte Luca, che ti sento un bel forte. Ok, vabbè, sono aiutato, dai, stavo facendo andare la segretaria. Quasi quanti arrivati circa, dai, fa bene. Magari è in zona negativa per me. Dai, ripeto un attimino che mi sposto, che vado a farmi un mettazzone di latte caldo, perché c'ho questo mal di gola, mamma mia, va. Preferisci dolci, così mi prendo anche le medicine. Riprendi Eugenio. E a me come mi ascolti? Bene Gianni, questo passaggio ti ho sentito, forte e chiaro. Radio 5, Santiago 9. Gappa. Sì, no. Sono arrivato adesso, fine quattro corsie, sto entrando sul video della Gappa, ti ascolto ancora, vai. Penso fino ad Alghero ti farò compagnia. Qua scende la nebbia. Oh Gianni, mi senti ancora? Carpa Carlo, ti ascolto, ho sentito scendere la nebbia. Sì, sono qua nel ritiro prima del video di Tutubella. Sì, ti ascolto, un po' bassino di radio, ma ti ascolto. Sì, Santiago 2:30-3. K. Provala con la più lunga, magari va meglio. Grossissimo flop il capitano a Sassari, non va nessuno per i balli di gruppo. Carlo, quindi sei in ufficio stanotte? Buona meta, avanti Eugenio, riprendi. Io stavo dicendo che era a Sassari, è stato veramente un flop in piazza, non c'è nessuno. L'ho visto su internet, hanno fatto una gaffa, un gruppo di 10 grossi, perché hanno fatto tre piazze e sulla piazza c'era il pierone, potevano farne una con un cantante come si deve e avrebbero fatto la folla che c'era al ghetto. Quest'anno Alghero, Castelsardo e Cagliari, di brutto alla grande. Fabino, riprendi. Buonasera, ciao Gianni, buonasera, ben sentito. Sono un attimino qua all'ascolto. Dai, riprendete voi, entro subito. Comunque io a Carlo l'ho perso. Ciao Gavi, dai, sto chiudendo anche io, ci sentiamo, che devo fare roba, dai. Andare, grazie per il QSO, un saluto a tutti, dopo un corretto esecutivo. Ciao già, ci sentiamo, chiudo anch'io. Ciao Gavino, riprendo dopo. Ciao Gavino, ciao già, ciao a tutti, ciao. Ciao Roger, io sono qua all'ascolto comunque. Avanti Carlo, dai, chiudo quando arrivi. Vabbè già, buon pomeriggio, ci sei. Dimmi. Aspetta che sta parlando Carlo, avanti Carlo, ho capito, là, vicino alle luci, ho capito, stai per arrivare, là, cappa, vai, tu sei piccolino, ma ti ascolto, no, ti ascolto sempre, dai, già si fa sentire quell'antenna, mi prendi il bombolino, prova che si ascolti a casa. Lascia stare. Andare. Luca, tu lo ascolti? No, negativo, già bombolino. Tutta la sera che chiedevo se ti avevano sentito aspettando che entrassi. Ma a me. E allora ragazzi? Stavo facendo commissione. Ma mi chiama la medicina, ma era tutto. Carlo, dai, ti saluto che devo fare roba, vai, ci sentiamo. Dove sei arrivato? Ho capito, dai, caro, dai, sei prima delle curvette dopo la rotonda, a me ti ho ascoltato anche se piccolino ti ascolto. Ciao Carlo, dai, ci sentiamo, spero che mi stai ascoltando, dai, ti saluto. Ciao, buon lavoro, vi saluto a tutti, Luca, se non lo sentite. No, non lo sento già. Appagato. Ah, resusciti pure, dai. Beh, io devo andare, dai, che devo accompagnare al lavoro, dai, ciao. Allora cos'era un vincente di lui? Figlia un coso della parabola, mettermi in tasselle e attaccare il tutto. Un altro pezzo di strappa e salirci fino a testa. Potessi farlo, ciao Gianni, potessi farlo, mi ha fatto un attalino. Perché nessuno te la fanno piazzare? Me l'hai messo per il momento. Ehi, vabbè, prima una, poi quando la vuoi cambiare, sai le metti quella che vuoi mettere. Sono solo te la fanno piazzare. E chi su è? Scappa. Sono di questi giorni, porto la bicicletta a farla aggiustare. Sì, quel mozzo, secondo il progetto che si spacca, poi ce la devo buttare. Poi si mi ha detto, scomunque. E poi a farvi vedere la batteria. Se mi conveni, se non me la vendo. Fatti bene la batteria. La batteria non regge, tu. Ho fatto. Da casa sono sceso a la muraglia per Daniela, vicino alla Ocean. Sono salito e mi sono rimasto due tacchette. Cazzo, se no mi ha proprio giù la batteria. però ti ha portato. Sì, beh, certo mi ha portato, ma poi un bel letto è salito, non ce l'ha fatta, di bella là, non ce l'ha fatta. E poi c'è la portetta della batteria che stava mollando per quello, eh. Ma di prima era più veloce in salita. Lo so. Alla fine non è che la pago poco, capito? E poi metterci altri soldi, no, non fa. Mi è passata una di quelle, volevo rotellare, che cazzo mi ha fatto il vento, mi ha fatto, che cazzo è bella. Prima quella era 45, era 45, era 45. La tua invece? Quella mi dice la taglia vuole, era 35, l'altra. L'altra ti ha pompato. Cioè va bene per gli spostamenti, da. Adesso vediamo un po'. Allora una sta regalando vedete sullo schermo una persona che ha bisogno e non può conquistarlo, una 50 la moto, lo so, la moto di muri benzina, dei muri uzzu, dei bagatti assicurazioni, dei bagatti rullo, e così, no? Però già ho avuto la moto, ne ho una, no? Beh, dei muri di un casco, sono le piccolezze, capito? Però sono piccolezze, se pagano un'assicurazione, non so quanto paghi tu. Adesso vediamo se sono lì per lì, sto decidendo, poi se mi compro, dove faccio 50 km orari la bicicletta. Guarda, io faccio 230 euro, ma che è stata? E lo so, Antro, secondo me. E poi sono la classe di merito sicuramente. Sì, sì. Ma se poi ce l'abbiamo fatta dai. E che l'ha fatto? Non ha giocato. E quanto ti ha fatto? Se non sbaglio 450, 500 all'anno. Ah, ti andrà a cagare. L'avrei fatta a fare io. Lo so, fa tanto che devo mangiare a te, allora. Se mi aspetti, così mi preparo anche un latte caldo, c'ho un mal di vaso, un muro. Non ho fatto due.